Voglio avere un motivo per sperare. Vorrei amare il cielo e l'acqua su di me. Vorrei sapere quante le strade per incontrarti. Senza cedimento, cielo in terra, in ogni luogo brucia l'egoismo senza sfogo. Oggi mi sento lineare, non ho voglia di fantasticare, una voglia di ghiaccio, un deserto appassito. Oggi sono come me, come me. Voglio avere motivo per sperare. Vorrei amare il cielo e l'acqua su di me. Vorrei sapere quante strade per incontrarti e poi volare. C'è la luce che splende nel cielo infinito, è l'anima di questo mondo incantato. Muovi ogni cosa, anche l'anima e il vento. Tu mi dai la speranza, anche se nulla meno. Ti avvolgi, mi abbagli, fa sì che io veda. Ti porgi la mano, fa che io non sia preda. Che quest'attimo scuro di un pianto chiamato, una lacrima viva del cielo più raro. Ora volo verso te, verso te. Voglio avere motivo per sperare. Vorrei amare il cielo e l'acqua su di me. Vorrei sapere quante le strade per incontrarti e poi volare. Un frammento vivo in me.